Secondo lei come si sta a Tione? Beh, ritengo che si sta bene dal punto di vista della vivibilità, forse dovrebbe essere più animata dal punto di vista culturale. Secondo lei gli adulti come vedono i giovani? Io sono un insegnante, io li vedo bene, ma non tutti gli adulti vedono bene questi giovani. Come mai? Penso che ci sta poche occasioni di incontro tra gli adulti e i giovani. E quindi questo non favorisce, diciamo, la comprensione di prospettive, diciamo, che i giovani portano avanti, insomma. Secondo lei i giovani come vedono gli adulti? Li vedono molto distanti. Li vedono molto distanti, se non i genitori, ma gli altri molto distanti. E anche in questo caso c'è un'impossibilità di potersi incontrare.